da adesso in poi com'è che andrà con te che hai detto sono qua e davvero sei qua fra noi, fra noi. Ma lei, tu che hai davanti quel che hai, comunque sia da adesso in poi, auguri da me, saprai, saprai che vale la pena vivere. Mi chiederai sì, ma perché? So solo che ti dirò, vale la pena, vedrai, da adesso in poi. Da adesso in poi ti aspetto qua, che fretta che hai avuto già, aspetta per te, per noi, per te, per noi, non so se sarò pronto mai. Solo que te...